componimento 167esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Quando amor i belli occhi a terra inchina e i vaghi spirti in un sospiro accoglie con le sue mani e poi in voce gli scioglie, chiara, soave, angelica, divina, sento far del mio cor dolce rapina e sì dentro cangiar pensieri e voglie, ti dico, or fien di me l'ultime spoglie, se il ciel sì onesta morte mi destina. Ma il suon che di dolcezza i sensi lega, col gran desir d'udendo esser beata, l'anima al dipartir presta raffrena. Così mi vivo e così avvolge e spiega lo stame della vita che m'è data, questa sola fra noi del ciel sirena. Fine del componimento.